Convocati di Giovanni Capuano. Beh, per adesso, fino adesso, molto positivo. Penso che stasera si è fatta un po' la storia del calcio in qualche modo. Per la prima volta in una partita ufficiale, un'amichevole delle nazionali, si è testata effettivamente la tecnologia e l'aiuto video, la moviola in campo, per dirla all'italiana, e insomma i primi risultati sono molto molto incoraggianti. Arbitro, arbitro, soffiate il fischietto, sette giorni che ti aspetto. Arbitro, arbitro, guarda l'ureloge, non te prego mingere. Sì, non io, ma i due comunque assistenti dell'arbitro, che in 5-6 secondi sono riusciti comunque a valutare che al momento del passaggio un ginocchio potesse essere veramente più avanzato della linea del pallone, per cui sono riusciti a constatare e confermare il gol annullato che stiamo rivedendo. Quindi a VAR a regime si sarebbero persi 6 secondi soltanto. Sì, purtroppo oggi in questa situazione non abbiamo ancora una certezza, per cui non abbiamo delle linee disegnate sul campo. L'assistente dell'arbitro deve ancora interpretare. Speriamo che le linee sul campo non le disegnino mai, non trasformino mai il campo di calcio nel campo di football americano. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Oggi parliamo di moviola, breve ritaglio di voci nei primi mesi di sperimentazione della VAR, poi è arrivato il Giappone, i pasticci del mondiale per club. Oggi parliamo di moviola in campo, meglio di assistenza video, ovvero quello strumento che dovrebbe portare il calcio nel prossimo millennio, cancellando gran parte degli errori arbitrali più evidenti. Accadrà davvero, non accadrà, o è solo un'illusione? Forse la strada è più lunga di quanto disegnato all'inizio, quando è cominciata questa sperimentazione. Io lo faccio con Luca Marelli, ex arbitro di Serie A. Ciao Luca. Ciao Giovanni, buona giornata a voi. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche a Simone Malaguti, uno dei moviolisti di Premium Sport, o meglio dei giornalisti che insieme agli arbitri che raccontano la moviola tutte le settimane aiuta a fare il punto su che cosa succede nel campionato di Serie A. Ciao Simone. Ciao ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. I fatti di due settimane fa del Mondiale per Club in Giappone credo abbiano dimostrato che non è tutto ancora a posto, ma forse era difficile che lo fosse visto che stiamo parlando di sperimentazione. Luca. Sì, secondo me hanno accelerato un po' troppo i tempi, perché se è stata prevista una sperimentazione di 1/2 anni, due stagioni sportive, evidentemente è chiaro che l'utilizzo della moviola in campo, VAR, come dir si voglia, sia molto complesso. Averlo anticipato alla manifestazione a cui abbiamo assistito un paio di settimane fa evidentemente ha portato qualche problema, però ha portato anche alla luce i soliti problemi, che la discrasia tra le dichiarazioni e quello che effettivamente succede con la moviola in campo. Abbiamo ascoltato Busacca che ha detto che in 5-6 secondi si è deciso tutto. In realtà abbiamo visto durante quella manifestazione che ci sono stati un paio di episodi per i quali sono impiegati più di 3 minuti. Perciò evitiamo di diffondere propaganda, perché questa, la propaganda non serve assolutamente a nulla. La VAR può essere un aiuto importante, ma bisogna essere consapevoli che qualcosa, una tecnologia che cambierà, perlomeno anche se marginalmente, ma comunque cambierà il modo di rapportarsi del calcio con la tecnologia. Non sono 5-6 secondi, non saranno 10, non saranno 30. Serve il tempo che serve, e serve il tempo anche per sperimentarla. La sensazione, Simone Malaguti, è che siccome è un tema molto mediatico, che è un tema che interessa e entra direttamente in quelle che sono le passioni e anche le polemiche che dividono i tifosi, ci sia un po' di fretta di dimostrare che si sta cambiando. Sì, guarda, in realtà al Mondiale per Club, soprattutto nel caso di Ronaldo, il problema secondo me non è stato tanto la tecnologia, ma quanto l'uomo. Cioè davanti al video evidentemente c'era un uomo non molto sicuro ancora e sì, ancora non molto preparato, perché è stato spiegato questo da Busacca, anche dal nostro designatore Messina, che va allenata una generazione di arbitri che siano in grado di fare correttamente da VAR, di ricoprire questo ruolo. Essendo in una fase di sperimentazione, probabilmente da questo punto di vista siamo ancora molto indietro, non a caso. Ma quindi c'è un po' di fretta, cioè c'è stata forse un po' di fretta, che ripeto, serve anche perché questo è un tema delicato, che divide, che appassiona. Ma diciamo che più che fretta c'è stato forse un entusiasmo eccessivo nel voler dire che col VAR già saremmo stati sicuri che in questa partita avremmo corretto gli errori, in quell'altra anche. Ecco, entusiasmo eccessivo forse. Bisogna stabilirne bene i confini, stabilire bene i confini del VAR. Casi chiari, possibilmente, questo è un parere mio però, magari limitarla a casi di gioco fermo, gol, benissimo, gioco fermo, valutiamo, è successo qualcosa prima, fallo, è dentro l'area o fuori area, valutiamo, per tutto il resto lasciare che sia la sensibilità dell'arbitro a decidere. Sì, perché mi pare di capire, ma lo chiedo a Luca Marelli, che quello che dobbiamo aspettarci è che l'arbitro continui a restare centrale, comprese le sue interpretazioni, ma anche perché questo spesso dice il regolamento. Sì, beh, chiaro. Anche la, nel protocollo dell'IFAB relativo alla VAR è stato specificato che le decisioni riviste a Moria non devono interessare, non devono essere relative a valutazioni dell'arbitro centrale, ma devono essere casi chiari. Il problema, come tutte le sperimentazioni, è che non sono stati ancora messi dei parametri stretti, non sono state descritte specificamente quali sono le fattispecie che verranno analizzate. Ed è proprio questo che, rilasciandomi a quanto detto prima, che sostengo che la sperimentazione al mondiale per club sia stata decisamente troppo anticipata, proprio perché non si può applicare una legge senza conoscere la legge stessa. Cioè non si può applicare una normativa che è ancora troppo generalizzata. Anche perché c'è detto che nei mesi prossimi il protocollo cambi. Ma deve cambiare per forza, perché il protocollo in questa maniera, il protocollo è stato pubblicato proprio per dare massima possibilità di sviluppare la sperimentazione senza confini molto ben definiti. Però per applicare una tecnologia di questo genere non solo è necessario, è fondamentale che si mettano dei paletti, come diceva giustamente Malaguti, perché altrimenti non si capirà mai quali sono i casi da poter valutare, quali non siano da valutare, quali siano i confini della valutazione di un arbitro e quali siano i confini di un intervento di qualcun altro, di qualcuno di esterno, a cambiare o comunque a mettere in discussione la valutazione di un arbitro. In questa maniera io al mondiale per club non ho capito un granché, onestamente. Non hanno capito nemmeno loro. Io non ho capito, ma lo chiedo a Simone Malaguti, che poi è al polso dei tifosi, quindi delle persone che seguono le moviole, si appassionano, se è stato capito non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche da parte dei tifosi, che cosa dobbiamo aspettarci e cosa no dalla VAR. Beh, tra i tifosi sicuramente c'è un grande entusiasmo per l'avvento del VAR, perché poi tra i tifosi la cultura sportiva non è sempre al top, c'è sempre la cultura del sospetto, quindi è assolutamente benvenuta dai tifosi, è benvenuto, perdone, perché sarebbe maschile, il VAR. Sono stato corretto da Rosetti una volta, in cui mi è scappato la VAR. Ecco, poi se si vuole andare a vedere, aggiungo qualcosa a quello che stavate dicendo ora. Ovviamente, non so se ricordate, Italia-Germania, l'amichevole, il gol annullato a Holland. Sì, il famoso gol annullato in 6 secondi, secondo Busacca. Esatto, in realtà fu subito annullato con richiesta poi di conferma. Era un caso al centimetro, al millimetro. Sì. Dal furgone davanti ai monitor gli dissero: guarda, è un caso lì, quindi va bene qualunque cosa tu abbia deciso. Ecco, in quei casi la VAR non si vorrà sostituire e i tifosi non si aspettino magari che vada a sostituire l'arbitro anche nei casi di fuorigioco millimetrico, per cui un tifoso grida comunque allo scandalo se la sua squadra subisce un gol. Quindi dobbiamo rassegnarci, cioè resteremo un popolo con VAR o senza VAR che si dividerà la domenica sera dietro una moviola, Simone? Me lo auguro, perché altrimenti cancelli, no, ma non per quello, perché altrimenti cancelli totalmente lo stile e la coscienza del singolo arbitro e l'interpretazione del singolo arbitro. E comunque ci sono veramente casi in cui neanche la TV può dare una certezza, leggere interpretazioni di un centimetro, l'entità di una spinta, a una verità assoluta in ogni singolo episodio non si potrà arrivare, e questo va accettato per quanto sia dura. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie Simone Malagutti. Mi tengo però ancora un minuto, Luca Marelli, perché poi cerchiamo di capire in questi primi quattro mesi di stagione italiana, con la sperimentazione assolutamente offline, quindi non come quello che abbiamo visto nel Mondiale per Club in Giappone, ma in un circuito chiuso tra arbitro, assistenti e chi sta dietro il video, quante volte, se davvero qualche volta, avrebbe cambiato il senso delle partite. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Arriva la moviola, arriva la moviola in campo, la VAR o il VAR, video assistant referee. Ne stiamo parlando con Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, che sta seguendo, monitorando settimana per settimana anche la sperimentazione che viene fatta nel nostro campionato. Luca, proviamo a capire, nei primi quattro mesi di stagione e di questa sperimentazione offline, se fossimo operativi, quante volte davvero avrebbe inciso sulle partite? Ma guarda, io ho memoria, me ne ricordo una sicuramente, che è Fiorentina-Roma, con la rete segnata da Baden, mi pare, sì, con un giocatore in fuorigioco davanti a Cesare. Quello sicuramente avrebbe influito, perché rivista alla mia viola la rete sarebbe stata annullata, perché sia il giocatore si trova proprio nel punto di visione copriva la visione del portiere, perciò andava ritenuto influente per la segnatura della rete. Tirando il compasso, il disegnatore Messina ha parlato del famoso Milan-Sassuolo 4-3, ecco, dove sì, in realtà c'è molto di interpretazione da parte dell'arbitro nel non concedere, certo, rigori o nel concederli. Infatti in quel caso io non sono molto d'accordo con quello che ha detto Messina, prima di tutto perché non possiamo, tanti episodi di Milan-Sassuolo non avrebbero neanche potuto essere analizzati a VAR secondo le indicazioni che abbiamo in questo momento. Peraltro comunque è una dichiarazione che ho trovato fuori luogo, perché siamo in un periodo di sperimentazione, sostenere che la partita sarebbe potuta terminare in maniera differente io ho trovato veramente poco elegante, soprattutto nei confronti del suo amministrato, del suo arbitro, ma al di là di questo. Provando a stare sui casi concreti, cioè ad esempio di tutto il caos del derby Lazio-Roma, certo, quello che poi ha portato alla prova televisiva, poi al ricorso, alla squalifica cancellata, ecco, ad esempio lì sul campo Banti avrebbe avuto sostegno dall'arbitro dietro alla televisione? Guarda, probabilmente in quel caso sì, perché essendo stati coinvolti tanti giocatori, sia Banti che Costanzo che l'assistente numero uno non avevano la possibilità di controllare tutti. Rivedendo l'episodio alla moviola, probabilmente avrebbero potuto individuare sia i colpevoli, come sono stati tutto sommato individuati, sia le sanzioni disciplinari corrette, che a mio parere erano due cartellini gialli, perché si trattava certamente di comportamenti antisportivi, ma non certo tali da essere considerati meritevoli del cartellino rosso. Ecco, lì probabilmente la confusione si è creata proprio per questo motivo, perché è stato applicato la stessa fattispecie a due giocatori con due sanzioni disciplinari differenti. Quali sono i casi in cui potrebbe servire? Però sosteniamo anche un altro aspetto: non avrebbe cambiato sostanzialmente nulla della partita. Ecco, avrebbe semplicemente confermato una decisione presa in campo. Sì, comunque la cosa che dobbiamo tenere, e devono tenere soprattutto le persone che si avvicinano a questa cosa come punto nodale, è che l'interpretazione, l'ultima decisione, quella dell'arbitro, rimarrà dopo esattamente come è adesso, semplicemente in alcuni casi che magari se ci aiuti a riepilogare riepiloghiamo in breve, con un aiuto in più, con uno strumento in più. Esatto, io ritornerei proprio sul primo episodio ufficiale di utilizzo del VAR, che è la partita del torneo, rigore dei giapponesi, esatto, del Kashima Antlers, che è stato assegnato attraverso l'utilizzo del VAR. Ecco, in quel caso con giocatore in fuorigioco, e lì entra l'interpretazione. Volevo proprio lì arrivare, perché è vero che si è concesso il calcio di rigore, ma chi mi dice che il giocatore del Kashima Antlers non fosse in fuorigioco punibile? E come fosse può pensarsi che il giocatore del Kashima fosse in fuorigioco non punibile quando subisce in fuorigioco il calcio che poi il calcetto che poi porta al calcio di rigore? Ecco, siamo sempre lì. Ecco, una decisione di questo genere, quando sento Busacca affermare che in 5-6 secondi si risolve, io non rimango perplesso, io rido. Perché davanti a un episodio di questo genere, anche noi tecnici, permettimi di definirmi tecnico, perdiamo tempo. Io ancora adesso sto discutendo con capita di discutere con altri colleghi di questo episodio, perché non è chiaro. Le discussioni rimarranno sempre, come ho sempre detto, non pensiamo che il VAR possa eliminare qualsiasi discussione, perché discussione, se al contrario, potrebbero addirittura aumentare. Sì, con semplicemente non più soltanto l'arbitro nel mirino, ma gli arbitri e quindi tutta la struttura in generale. Prima di salutarti, proprio in maniera didascalica, li ricordiamo allora per casistica i quattro casi in cui Luca il VAR o la VAR potrà intervenire. Sì, no, ripetiamo anche il concetto, tanto per chiuderlo, che in questo momento sono casi molto molto generici, proprio perché hanno voluto lasciare una possibilità di poterlo sperimentare. Si tratta di gol, dei gol, quelle che sono le reti segnate. Il VAR servirà per determinare se la rete è stata segnata in modo regolare o irregolare, chiaro, non sui casi molto evidenti di fallo o rete regolare. Poi ci sono le decisioni sulle calci di rigore, potranno essere rivalutate o riviste immagini che abbiano portato all'assegnazione o alla non assegnazione di un calcio di rigore. Poi ci sono, se viene citata le cartellini rossi, cioè evitare che un giocatore che debba essere espulso rimanga in campo, o al contrario evitare che un giocatore che non si è reso colpevole di una azione da cartellino rosso venga espulso. Che comprende tutto, dallo scambio di persona alla valutazione della gravità del fallo. L'errore nell'identificazione del calciatore è il quarto caso, l'ultimo caso. Effettivamente queste ultime due sono molto simili, probabilmente l'identificazione del calciatore sbagliato è un sottoinsieme dei episodi da cartellino rosso, e probabilmente questo verranno ridotti sotto la stessa voce. Sì, verranno messi nella stessa voce. Grazie Luca. A voi. Grazie a Luca Marelli, e dunque è così, l'abbiamo vista nel 2016, la vedremo ancora di più nel 2017. Saluto Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao, ciao. C'è un errore arbitrale della tua carriera che vorresti cancellare con la VAR, subito o avuto a favore? Ma non ricordo così importante da poter cambiare una carriera alle sorti di una coppa. Eravate troppo più forti, dai, per stare a discutere di arbitri. Erano forti, però non lo so... Non, devo dire la verità, non mi ricordo. Mi ricordo sicuramente una partita Sampdoria-Milan, quando vinciamo 2-0 il primo tempo, siamo andati a perdere 3-2 con gol di Gullit. Devo dire che qualche cosa avrei rivisto in quella partita. Certo. Senti, ma ti ha stupito che in queste settimane tanti calciatori, tanti allenatori, quindi diciamo chi il calcio lo pratica, abbia espresso critiche nei confronti dell'idea che ci sia la moviola in campo? Ma è già sbagliato dire la moviola. Io ho fatto parte delle commissioni della FIFA e della UEFA, ne abbiamo discusso parecchie volte. La difficoltà è quella di avere la certezza, perché della macchina si richiede la certezza. E poi chi lo pratica pensa sempre che l'arbitro possa sicuramente commettere l'errore. Però c'è una sensibilità diversa da chi, per chi sta in campo. Sì, c'è una sensibilità diversa perché gli arbitri fanno parte del gioco, anzi sono quelli che dovrebbero dirigere e che lo dirigono nel miglior modo possibile, con qualche errore che ci può stare. Senti, il 2017 rischia di essere un anno di profondi cambiamenti. Adesso, uscendo dal tema della VAR, dell'assistenza video per l'arbitro, ad esempio è in discussione tutto ciò che ruoterà intorno alla più grande manifestazione del calcio mondiale, che è il mondiale, magari già a partire dal 2022 o comunque dal 2026, l'allargamento a 48 squadre, che in realtà significa l'allargamento a tante confederazioni, perché poi l'Europa guadagnerebbe qualche posto, ma semplicemente in maniera proporzionale. E poi si parla di abolire i pareggi, abolire i supplementari, mettere i calci di rigore in modo che ci sia sempre un vincitore. Secondo te si sta correndo troppo dopo 100 anni quasi di immobilismo, o è bene che il calcio si svecchi? Ma diciamo che si sta cercando di... i cambiamenti oggi sono più rapidi di quelli di 30 anni fa e quindi bisogna un po' stare al passo. Si parlava prima delle tecnologie al servizio dell'arbitro, e quello fino a un certo punto sono veramente d'accordo. Si sta parlando di alcuni punti in discussione per il futuro del campionato del mondo, e alcuni mi trovo d'accordo, altri no, nel senso quello del pareggio. Ecco, non l'idea è... che ci sia una partita, che il calcio diventi come il basket. No, il pareggio no. Secondo me, questo è il mio parere, esiste, i tempi supplementari devono esistere, forse sono i calci di rigore da poter cambiare, ma non sicuramente il tempo supplementari. Sì, c'è sempre il sospetto che, essendo comunque un format televisivo, il calcio come qualsiasi sport oggi lo è diventato, sia più semplice eliminare ciò che non controlli, ad esempio i tempi supplementari, piuttosto che qualcosa che ti dà assolute certezze. Io penso che la cosa che non si debba commettere, l'errore, è quello di dover assolutamente cambiare qualcosa, no? Alcune cose fanno parte della situazione calcistica, non cambierebbe secondo me tantissimo con il pareggio, togliere il pareggio, ci sarebbero più rigori, ma perderebbe anche la possibilità di un tatticismo magari. Secondo me non perderemmo nemmeno i biscottoni, se si devono fare si fanno i biscottoni. Sì, ma cioè, io dico sempre, se sono uno fautore delle regole, ma soprattutto fautore delle... non esistono regole senza sanzioni, quindi dove io agirei molto di più sono sui controlli, punto. Questa è la cosa più importante. Sì, perché altrimenti è inutile scrivere un regolamento anche più stringente. Abbiamo ancora meno di un minuto. Demetrio, mi dici cosa ti auguri per il 2017 del calcio italiano invece, in generale, in campo e non solo? Allora, sicuramente più gente allo stadio. Vorrebbe dire aver raggiunto aver alzato la spettacolarità del nostro campionato. Gli ultimi dati, sicuramente siamo uno dei paesi con meno spettatori. Le infrastrutture sono molto importanti, e poi spero che si continui a valorizzare i nostri giovani, perché li abbiamo, e non sia solo un momento, perché alla fine credo che i talenti li abbiamo sempre avuti e li abbiamo persi di vista negli ultimi 5-6 anni. Il 2016 qualcosa ci ha raccontato nella seconda metà, tra Nazionale, Milan, l'Atalanta, che è stata una storia meravigliosa di questa prima parte della stagione. Grazie Demetrio. Grazie a voi, ciao. Grazie Demetrio Albertini, c'è la borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... convocati. A Golden, l'oro, l'oro dei vivai, che per chi riesce ad allevare i giovani significa l'oro economico, perché poi i giovani si rivendono e aiutano i bilanci, significa l'oro in campo. Basta vedere cosa ha fatto negli ultimi mesi l'Atalanta. Saluto Tancredi Palmeri, ciao Tancredi. Buongiorno ragazzi, che grande scelta per la canzone, che DJ in regia. Nostro Giorgio De Luca, autore di questa puntata, con Gianmarco Ferronato, scelte musicali, copertine, sono tutte loro, Tank, tutte loro, tutte loro. Veramente qualità. Senti, 2016 si è chiuso, abbiamo scoperto ad esempio in Italia che i giocatori giovani e buoni li abbiamo, a sorpresa. Sì. Esistevano, quindi non è che diciamo non nascono più, non gli insegnano più, perché effettivamente siamo andati avanti per 3 anni almeno a dire non, le mamme non fanno più figli calciatori. Ma anche un dirigente importante come Sabatini. Però guarda, forse ci serviva forse solo un po' di coraggio, perché in fondo è un po' come se tu tieni i giovani giornalisti sempre a fare la scuola di giornalismo fino a 25-26 anni, oppure a 21-22 anni li mandi a cercare notizie più grosse di loro. In fondo la vita ti insegna a viverla, per cui probabilmente è così anche per il calcio. Intanto saluto anche Fabio Parisi, procuratore, agente FIFA, mediatore, uomo che conosce molto il calcio in Italia e non solo. Ciao Fabio. Ciao. Bastava lanciarli i giovani per scoprire che c'erano anche in Italia. Certo, bisogna cambiare indirizzo, bisogna avere fiducia, crederci e non pensare, c'è la brutta abitudine di dire abbiamo paura di bruciarlo, si bruciano a tenerli in panchina, tenerli in naftalina senza farli giocare. La dimostrazione c'è, che quando uno ci crede li butta in campo e poi i ragazzi rispondono. Sì, anche se la sensazione è che ancora noi abbiamo la mentalità che possa capitare, e intendo soprattutto a certi livelli, se c'è una situazione di estrema necessità. Il caso, insomma, è il Milan degli ultimi mesi, quasi senza mercato, quasi senza progetto, si inventa un progetto. Questo è anche fare di necessità virtù, capisci? Questa è la situazione. Però bisogna anche avere coraggio. Penso soltanto a 6 giovani che sono stati lanciati fino adesso dall'Atalanta, dal Milan stesso, anche la Juventus, giocassero, che ne so, nell'Ajax o nel PSV Eindhoven, saremmo qua a dire eccoli lì, li fanno giocare, dei fenomeni, andremo a comprarli a decine di milioni di euro. Spero che non ce li portino via le squadre a decine di milioni di euro adesso. Sì, perché, che potrebbe sempre capitare anche questo. Che è sempre il nostro problema oggi. Io ho convocato Tancredi Palmeri e Fabio Parisi, che sono due profondi conoscitori di tutto ciò che gira anche fuori dall'Italia, perché adesso vi lascio la palla. Nei prossimi 10 minuti vorrei fare per i nostri amici a casa o dove si trovano in vacanza una sorta di guida. Qualche nome, qualcuno che dobbiamo tenere d'occhio nel 2017, nei prossimi mesi, qualche ragazzo che magari fra qualche mese ci troveremo qui col mercato, ma che insomma promette bene. Tank. Allora guarda, io ho stilato diciamo 2 top 5, una per quanto riguarda i giovani italiani, però togliendo i nomi, perché insomma è troppo facile mettere Locatelli, Donnarumma o anche quelli dell'Atalanta, quando insomma vanno in prima pagina con 15 milioni di offerte della Juventus, non c'è bisogno di il commento si fa già da sé, quindi né che sia né Caldara né Gagliardini, ma nemmeno Donnarumma e Locatelli. Sono e poi giovani ormai vecchi, mediaticamente parlando. Esatto. E poi ho fatto una top 5 di stranieri. Vai con la top 5 straniera, dai. Allora, al quinto posto ti metto Miguel Borja, che nonostante la delusione dell'Atletico Nacional nel Mondiale per Club, però è a 23 anni, comprato a giugno dal Nacional di Medellin, è in 5, si è preso praticamente la squadra più forte del Sud America, con due doppiette nelle semifinali di Libertadores, il gol decisivo in Libertadores, gol poi nel che li ha mandati nella semifinale sudamericana prima che poi ci fosse la non finale per la tragedia dello Chapecoense, è un attaccante puro. Dovessi trovare una pietra di paragone, direi una sorta di Immobile colombiano. Miguel Borja, esatto. È già passato, il che significa, Tancredi, ma lo chiedo anche a Fabio Parisi, insomma, che il Sud America continua a essere un bacino interessante. Poi attenzione, prendere con le pinze, perché la vicenda di Gabigol insegna tante cose. C'era Gabigol, ma c'era anche Gabriel Jesus, poi sì, bisogna vedere chi è stato preso, però giocatori ce ne sono comunque costantemente che vengono lanciati. Vai Tank. Allora, prima di arrivare al quarto, fatto Miguel Borja, ti dico, ha avuto anche un breve passaggio in Italia, perché è stato tipo una mezza stagione a Livorno 3 anni fa, l'ultima che è stata in Serie A, ma non gli hanno dato parecchio spazio. Questo è il classico attaccante in cui devi credere, se gli dai tranquillità poi ti ripaga. Al quarto posto metto Ederson, che è il titolare del Benfica, il portiere titolare del Benfica, che ha scalzato Giulio Cesar, brasiliano per brasiliano. In verità all'inizio ha trovato il posto da titolare perché Giulio Cesar si è infortunato, e poi però è arrivato, ha avuto una serie di prestazioni, una meglio dell'altra, che non l'ha più mollata. La titolarità, aveva guadagnato anche la Coppa America, dove se la giocava con Allison, il portiere comprato poi dalla Roma, solo che ha avuto un infortunio prima della Coppa America e ha dovuto rinunciarvici. Questa stagione è stato confermato, peraltro nel classico prima di Natale contro lo Sporting è stato il migliore in campo, è giovanissimo, la sua qualità soprattutto ha una grandissima reattività tra i pali, è davvero un gatto, e poi ripeto, nonostante questa giovanità, subito buttato dentro, lui ha 21 anni. Sì, hanno grande personalità questi ragazzi, Fabio. Noi vediamo, certo, in Italia Donnarumma. Certo. Ma si può davvero attaccare l'etichetta del predestinato nel caso di Donnarumma, ma insomma anche in altri casi, o quello del portiere è un ruolo talmente delicato che rischiamo di bruciarci? Ma sai, bisogna anche osare ogni tanto, poi è il campo che lo dimostra, Quando uno viene messo in campo e si comporta e fa quello che fa Donnarumma, predestinato così, però che sia uno che lascerà il segno nel calcio, questo è evidente, assolutamente. Siamo al terzo posto, Tancredi. Al terzo posto Mahmoud Daoud, ovvero sì, centrocampista di movimento, tocco del Borussia Mönchengladbach, auguri perché ha appena compiuto 21 anni, ma in verità potremmo trovarcelo a giorni già nella Serie A, perché è questo, insomma, perché è un pochino rimbalzato, ma la Juve ci sta lavorando parecchiotto. Su Daoud, che è una sorta, se vogliamo trovare un paragone, potremmo un pochino paragonarlo alle caratteristiche tecniche e tattiche di Vidal, diciamo. Lui per il Mönchengladbach, che è una squadra che gioca benissimo in Germania, una sorta di piccolo Borussia Dortmund, se vogliamo, lui ha garantito quella combinazione tra qualità e quantità che fornisce l'equilibrio al Mönchengladbach, che altrimenti sarebbe troppo sbilanciato. E se a 21 anni la Juventus lo cerca già per trovare proprio quella mancanza di quantità e qualità che ha al centrocampo dopo le dipartite di Vidal e Pogba, insomma, vuol dire che non è soltanto un fuoco fatuo. Peraltro contro il Barcellona in Champions League, nella partita in casa, è stato uno dei migliori in campo. C'è qualche altro nome, Fabio, che possiamo fare? Ah sì, ce ne sono diversi, simili, molto, che io, sai, io vai, focus su abbastanza su certi mercati. Per esempio Sar del Nizza 99, un giocatore da prendere con le pinze, assolutamente, proprio, ma con un giocatore di straordinaria potenzialità, veramente forte, difensore centrale del 99, gioca già titolare inamovibile nel Nizza, che prima in classifica è cambiato in Francia, cioè stiamo parlando di un giocatore di questo tipo. Nel Nizza gioca un altro interessantissimo giocatore che si chiama Wylan Cyprien, un centrocampista davanti alla difesa del 95, anche lui ha fatto 5 gol quest'anno, ha fatto tot di presenze, veramente veramente forte. Un altro giocatore che a me piace molto si chiama Diop, un difensore centrale del Toulouse del 97, anche lui già titolarissimo, gioca alla stragrande, fa la differenza, è assolutamente un giocatore. La Francia continua a essere un campionato seguire. Che è un bel bacino. Ma sicuramente, cioè, campionato di formazione fisica, una potenza, sì, non hanno paura a farli giocare, li buttano dentro e si vedono i risultati. Poi se vogliamo guardare per esempio campionato olandese, Dolberg, centravanti dell'Ajax 97, è un altro giocatore da prendere seriamente in considerazione. Sì, all'Ajax sono sempre fenomenali perché hanno sempre pronto quello dopo. Lì, esatto. È andato via Milik, ma dopo, c'era già pronto quello dopo. Lavorano bene in funzione della prima squadra, tante cose, anche Riedelwald. Quindi il segreto sarebbe sapere chi è quello dopo di Dolberg. Questo bisognerebbe saperlo, perché Dolberg secondo me le squadre italiane fanno fatica andare a prenderlo. Sì. E prima parlava Tancredi del Mönchengladbach, c'è un giocatore del Mönchengladbach che a me piace moltissimo, non sta ancora giocando in prima squadra del Mönchengladbach, ma gioca nella seconda squadra, è un centrocampista di nazionalità svizzera, si chiama Gibril Sow, è del 1997 ed è un giocatore, anche quello, un centrocampista dinamico, moderno, per far dei nomi. Poi ce ne sono tanti, tanti altri. Allora, aspettate, per esempio, per me, sì, un giocatore che diventerà anche lui, non so come faranno a gestire, perché potrebbe verificarsi un dualismo di quelli interessanti, è Plizzari, anche lui nel settore giovanile del Milan, è un portiere anche lui, ed è un portiere che secondo me può essere all'altezza di Donnarumma. Sì, a proposito di dopo, è il dopo Donnarumma, e poi capiremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quando inizierà il dopo Donnarumma, perché pare un controsenso, ma potrebbe anche esserci un dopo Donnarumma abbastanza rapido al Milan. Oh, ci mancano gli ultimi due nomi di Tancredi Palmeri per quanto riguarda la top 5 europea, magari ancora un paio di suggerimenti di Fabio Parisi, vi chiedo ancora un minuto di pazienza, c'è il traffico, ripartiamo subito. Tutti convocati. Convocati. Poi stavo pensando che capita così, per anni non trovi un portiere, non trovi un difensore giovane, un centrocampista, un attaccante, poi improvvisamente magari ti arrivano tutti insieme. Oh, siamo con Tancredi Palmeri e Fabio Parisi. Eravamo in difetto degli ultimi due nomi della top 5 di giovani europei da tenere d'occhio nel 2017. Tancredi. Allora, vado per il secondo. Prima, piccolo inciso su Daoud. Sì. Prima, peraltro, un curdo siriano emigrato in Germania, è naturalizzato quando era piccolo perché la famiglia scappava dalle truppe di Assad, quindi veramente ci potremmo riempire puntate e puntate di tutti i convocati. Allora, al secondo posto, Timo Werner, ovvero l'attaccante goleador del RB Leipzig, del Lizia, della Red Bull, che sta facendo incazzare tutta la Germania, e uno che nonostante i 20 anni probabilmente non lo farebbero entrare in un sexy shop perché ha la faccia di un bambino, sembra che ne abbia 12 o 13, però non è acerbo come un bambino perché occupa le vette della classifica capocannonieri già in Bundesliga, e in tutti in lui rivedono l'erede di Miro Klose, 20 anni. Il primo posto è? E il primo posto per me è André Silva, che è l'attaccante crack del Porto quest'anno, quindi insomma anche qualcosa in previsione dello scontro Champions contro la Juventus. Si è preso il Porto in nemmeno un anno, solo 21 anni, segna a ripetizione. Dovessi trovare un paragone, è un tipo di attaccante, diciamo, con un pochino di tecnica meno, ma come movimenti e come posizione tipo Enrico Chiesa, diciamo. Fa veramente reparto, ma dal punto di vista tecnico l'hanno buttato in nazionale, ha fatto 4 gol in 5 presenze, è uno secondo me che non smetterà mai di segnare. No, ed è anche uno, Fabio Parisi, che è quasi fuori, credo, dai radar italiani per valutazione. Sì, non ho idea poi se sia di Mendes o non sia di Mendes, chi lo possa gestire o che possa fare delle altre cose. Ripeto, purtroppo bisogna vedere. Noi stiamo parlando di giocatori che hanno già dato. Già dato. Quindi bisognerebbe andare a vederli anche un pochino prima. Confermo il di Mendes. Così si spiega anche la clausola di 50 milioni di euro. Certo, insomma, una clausola a 50 milioni non si nega a nessuno. Esatto. Prima di salutare. Quanto c'eri clausola tu, Giovanni? Io, 50 milioni. Ah, grandissimo. Assolutamente. Prima di salutarti, Fabio, mi dai altri due nomi? Ti do due nomi. Uno, a me piace molto Pulisic del Dortmund, che ha passaporto americano, giocherà in nazionale americana, anche lui del 98, un giocatore interessante. E poi butto lì un nome che qualche addetto ai lavori forse conosce, ma è abbastanza sconosciuto, perché stiamo parlando di un 2001, che si chiama Julian Von Moss, gioca nel Grasshoppers, ed è uno di cui sentiremo parlare. 2001, praticamente un bambino. Grazie Fabio. Grazie a voi, ciao. Grazie a Fabio, ciao. Parisi. E adesso passiamo agli italiani. Intanto saluto Paolo Ghisoni, collega di Sky. Ciao Paolo. Buongiorno Giovanni. Appena uscito il suo almanacco La Giovane Italia 2016-2017, gli under 19 in cui crediamo. Ce ne sono? Sì, ce ne sono. Adesso diciamo che dopo 5-6 anni nel quale il lavoro sembrava un po' anacronistico, adesso cominciano ad arrivare in Serie A, soprattutto la palestra della B è diventata in questi anni veramente un serbatoio importantissimo. È stato bravissimo Di Biagio a costruire un Under 21 nell'arco di 6 anni, pescando gente che ha iniziato da lì. Mi riferisco ai vari Belotti, piuttosto che Benassi, piuttosto che altri ragazzi, insomma, che sono un po' cresciuti e che adesso sono un po' il simbolo della nazionale di Ventura. E quindi sembrava, ripeto, un po' anacronistico, perché sentivo precedentemente Fabio, insomma, parliamo sempre troppo spesso di giocatori stranieri. E ce ne sono in Italia, basta dargli fiducia e soprattutto cercare anche un po' di crescervi, evitando subito giudizi, pagelle, cose che non tutti riescono a farsi scivolare sulle spalle a livello responsabilità e pressione. Sì, perché poi il salto è davvero quello. Oh, il 2016 è stato anche l'anno in cui abbiamo visto debuttare i millennials nel nostro calcio, Paolo. Sì, assolutamente. Parliamo di Ken, insomma. Parliamo di Ken, ma anche in Serie B si è visto qualcosa. Sì, si è visto qualcosa con Traoré, che Perugia però non è italiano. Noi cerchiamo un po' di, ripeto, di andare controcorrente e cercare di dare visibilità a quelli che sono i prodotti nostrani, perché credo che poi sia importante, quando arrivano eventi clou come sono i mondiali, non fare il solito scaricabarile. Bisogna arrivarci preparati, dando un notaggio a questi ragazzi, soprattutto a livello internazionale, ma nei club, perché poi quando arrivi in nazionale forzatamente non sei pronti o non si ha l'esperienza, se non la si è fatta col club, e non si può pretendere che lì si faccia la differenza se non si hanno le spalle larghe, come è successo, tanto per fare un esempio, la finale del campionato europeo Under 19, quando la Francia, al di là del risultato, aveva mediamente la squadra che aveva le 90 presenze in Ligue 1, e noi eravamo a 6 teste nel campionato italiano. Quindi sì, ci eravamo già passati nella finale dell'Under 21 con la Spagna l'ultima volta. Sì, però vedi, noi una squadra di ragazzini, loro una nazionale che comunque aveva giocatori con già le spalle larghe. Se poi andiamo in Germania la situazione peggiora ancora di più, insomma, se facciamo un raffronto con loro. Però vedi che è un po' sempre il solito refrain che ci ripetiamo da qualche anno a questa parte. C'è qualche caso sporadico, però non basta, secondo me va ancora data maggiore enfasi e soprattutto protezione a ragazzi, sperando un po' il caso della Provercelli in Serie B, no? Si fa fatica, che ha un allenatore come Moreno Longo, che a livello settore giovanile è stato forse uno dei più bravi negli ultimi anni, insieme a Bollini, che adesso ha preso in mano la Salernitana, o come Inzaghi a suo tempo. È vero che fanno molta fatica, nonostante abbiano un gruppo molto giovane italiano, con qualche, diciamo, anziano, ma insomma non si vive con la serenità giusta in una provincia, ripeto, come Vercelli, che ha dato tantissimo al calcio italiano a livello scudetti, ma sto parlando di veramente di tanti decenni fa. Sì. Però ora c'è questa sperimentazione, ma così come è stato il Frosinone l'anno scorso, voglio dire, non si guarda mai mezzo fiero. Sì, l'abbiamo detto prima, i giovani spesso sono il progetto dell'emergenza e in ogni caso poi è facile che vengano scaricati anche in fretta come progetto, intendo, a caccia di qualche punticino che può andare bene per, soprattutto per la salvezza in questo caso. Oh, abbiamo la top 5 di Tancredi Palmeri, nomi italiani, tanca te. Allora, come detto, non prendo i vari, quelli del Milan, sì, quelli dell'Atalanta, perché insomma non avrebbe senso. Non mi, tranne per uno, non mi sono spinto fino agli under 19 di Paolo. Nomi da Serie A, allora, quinto posto non riuscivo a decidermi tra i due, quindi li ho messi tutti e due, ovvero sto parlando di Niccolò Barella del Cagliari e di Barreca del Torino. Barella è il classico centromediano metodista all style. Adesso lo vogliono paragonare un po' a Verratti, eppure a me, visto che lui viene dal Cagliari, è formato nel Cagliari e tutto, mi piace ripescare un paragone del passato che secondo me è sottovalutato, e parlo di Gianfranco Matteoli. Secondo me un centrocampista con tocco e sostanza, che insomma, se gli viene dato spazio. Regista classico. Sì, un pochino più arretrato. Barreca l'abbiamo visto, lo abbiamo visto anche, insomma, sbagliare nel derby contro Higuain, il che a quell'età lì non vuol dire nulla. Tuttavia, vedi, per esempio, là non è stato aiutato da Castan, perché su quel gol su Higuain, lui è andato a coprire su Higuain quando doveva esserci il centrale a coprire, che era Castan, che ne ha combinate più di Bertoldo nel derby. Però ecco, io là vedo, anzi addirittura, la responsabilità del laterale, che anziché dire ok, faccio il mio, va a coprire l'errore del prova almeno a coprire l'errore del difensore centrale e scala e prova lui a marcare. Non doveva essere lui a stare là. Poi rimani uno contro uno, come Higuain, e ti mangia. Dai, dammi gli altri quattro nomi. Quarto posto Federico, adesso inizia l'epopea delle ali. Quarto posto Federico Di Francesco, che già insomma con il Bologna e con Donadoni sta mostrando, sì, esattamente, figlio d'arte, con tecnica che ha bisogno secondo me di volare ancora per un po', di volare selvaggia prima di essere disciplinato, ecco. Terzo posto? Al terzo posto, beh, ormai è quasi veterano di questa stagione, è Politano, Matteo Politano, che è anche lui diciamo di formazione Pescara, ed è, se ci pensiamo, con tutto il ricambio che aveva il Sassuolo quest'anno, alla fine si è trovato in due competizioni ad appoggiarsi soltanto sulle spalle di Politano, che poverino da solo non può fare tutto, nemmeno Berardi ci sarebbe riuscito, però dal punto di vista della personalità si cresce in fretta così, si cresce in fretta. Secondo posto. Secondo posto, un altro, scuola Pescara, un'altra ala, non so dove le metteremo tutte queste ali, ed è Caprari, che è destinato all'Inter, che al Pescara, nonostante insomma il Pescara stia andando così male, però sistematicamente è il migliore in campo, lui ci sta provando, poverino, però all'estero secondo me potrebbe già giocare per esempio in una squadra di almeno media classifica, perché comunque sia non c'è difesa contro cui lui non abbia fatto il suo, e considerato che attorno non ha esattamente Real Madrid, anche questo vuol dire è un buon indicatore. Al primo posto? E al primo posto, guarda, io lo do a Lorenzo Pellegrini, che secondo me è completo, già fatto e finito per essere il centrocampista titolare della nazionale, non so se da Russia 2018, sicuramente da Europa del 2020, ma forse anche già da Russia del 2018, perché ha visione di gioco, quantità, inserimenti e sacrificio, è il prototipo del centrocampista moderno secondo me. Poi ci sono anche quelli che hanno avuto qualche problema negli ultimi mesi, ma mi viene un nome, Mandragora, che sicuramente nel 2017 torneremo a vedere, certo, e capiremo che giocatore è. Grazie Tancredi. Grazie a voi ragazzi. Grazie Tancredi Palmeri. Mi prendo l'ultimo minutino scarso con Paolo Ghisoni. Mi dai qualche under 19 invece? In effetti siamo andati un po' qui sugli over, perché sentivo 93-95, vabbè, Lorenzo 96, Pellegrini, concordo. Io non lo so, ti direi di lasciarli crescere, perché quando poi fai un nome alla fine non è nemmeno giusto per rispetto agli altri. Sì, ma anche aver, ad esempio, messo fuori Plizzari, come nome, sì, intendo. 2000 del Milan, sì, però il terzo portiere, insomma già la pressione di essere il nuovo Donnarumma, ma ragazzi ce ne sono, ripeto, la classe 2002, tanto per dirti, è molto molto interessante, ma stiamo parlando di giocatori embrionali. Prima sentivo, faccio un esempio, no? Avete parlato di Barreca, io ricordo sempre il caso di Criscito in un in un Roma-Juventus che sbagliò un anticipo simile con Totti e poi alla fine che fine ha fatto? L'abbiamo un po' tra virgolette deportato in Russia ed era un signor giocatore che poi è venuto a ricostruirsi col Genoa, adesso è allo Zenit. Poi non mi sembra un po' la cartina di tornasole per non dire o dare adesso i nominativi e poi alla fine il primo errore. Faccio l'ultimo esempio, Locatelli in Under 19 italiana qualche anno fa faceva fatica perché il modulo doveva essere quello e perché Locatelli è un giocatore che non può essere inquadrato in base al sistema di gioco, perché è un giocatore, come sta facendo il Milan, attorno al quale far crescere una squadra. Oggi l'abbiamo già battezzato come futuro Albertini, magari esagerando. Aggiungo una cosa su Pellegrini, io ho visto recentemente, l'abbiamo commentata insieme visto che siamo abbastanza amici, Manchester City Chelsea. Io ti dico che questo è un giocatore che veramente in Inghilterra può giocare tra qualche anno, come si dice in gergo, con la sigaretta in bocca, perché le imbucate che vede in Italia è una scuola tattica importantissima. Vedere quello che ha fatto Conte negli spazi di City, secondo me, Lorenzo, ma glielo ho anche curato, ne parliamo in maniera futuristica, è un giocatore della Premier League molto molto papabile. Ne riparliamo fra 2 o 3 anni. Grazie Paolo. Vediamo, speriamo. Grazie Paolo Ghisoni, ricordo la Giovane Italia 2016-2017, l'almanacco con tutti gli under 19 in cui bisogna credere. Io mi fermo qui, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, torniamo domani, solito orario.